Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchesi, è la seconda edizione Italia in controluce per quest'oggi 19 febbraio. È l'approfondimento del GR di Radio 24 dedicato alla cronaca. La moda del momento sembra ricercare modelli di vita alternativi. Prima il downshifting, rallentare, fare cioè in modo che la pressione del lavoro non ti travolga. Oggi la nostra Maria Luisa Pezzali indaga su un'altra prospettiva, quella della coabitazione, della costruzione di una sorta di comune moderna. Avete presente quando incontriamo il vicino di casa in ascensore e si crea quel silenzio imbarazzante? Si chiama sindrome dell'ascensore, uno dei mali della società moderna, soprattutto nelle grandi città. La soluzione si chiama co-housing, coabitazione, edifici in cui gli appartamenti, tutti indipendenti, possono contare su una serie di spazi comuni, dalla lavanderia all'orto, dalla terrazza alla piscina fino all'asilo. Abitazione propria ma servizi condivisi, il concetto delle comuni anni 70 rivisitato ai tempi della crisi e della società post-ideologica. In Danimarca il co-housing esiste da 30 anni, in Italia da 3 o 4. I primi progetti iniziano a diventare realtà proprio adesso. Come l'Urban Village di Milano, zona Bovisa, 30 loft e mansarde in una vecchia fabbrica di barattoli. Lorenzo, 32 anni, ci vive con la compagna da qualche mese. Non conoscevo nessuno, ho conosciuto le persone prima ancora di avere la casa in tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. La casa è fatta sul modello della classica corte milanese, quindi con tutti gli appartamenti che danno su un cortiletto interno. Gli spazi comuni che abbiamo deciso noi, perché comunque è stata una scelta presa in comune tramite una serie di riunioni che abbiamo fatto, sono stati un locale lavanderia, una hobby room dove poter fare del bricolage, una piscina e una grande sala comune dove contiamo di incontrarci e piuttosto che non la sera uno torna a casa, vuol fare due chiacchiere con qualcun altro. Io sono insieme alla mia compagna una giovane coppia, ci sono dei single anche loro giovani, ci sono delle famiglie con bambini piccoli, ci sono delle signore in pensione. C'è un po' di tutto, diciamo. Il progetto è nato da una ricerca del Politecnico di Milano dalla quale è emerso che il 40% dei milanesi non conosce i propri vicini di casa, racconta Nadia Simeonato della società cohousing.it che ha realizzato Urban Village. Questa ricerca ha dato un riscontro fortissimo di esigenze di una nuova socialità, di un nuovo stile di vivere e di abitare che si avvicinava moltissimo proprio al cohousing. Quindi questo progetto è partito proprio perché la città di Milano e in generale l'Italia dava un messaggio molto forte di cambiamento di esigenze di stile di vita. Non appena abbiamo lanciato questo progetto abbiamo avuto centinaia di persone che hanno espresso interesse. A volte ci sono dei gruppi che hanno già condiviso l'idea di andare a vivere in co-housing, semplicemente hanno bisogno di persone che riescano a concretizzare i loro sogni. Diciamo al prezzo di mercato si riesce ad avere poi tutti gli spazi e servizi comuni che non sono a pagamento ma sono compresi nel prezzo, quindi in realtà è come avere in qualche modo una casa più grande perché c'è la quarta parte degli spazi comuni con tutti i servizi organizzati allo stesso prezzo, quindi decisamente vantaggioso senza considerare poi tutti quelli che sono i risparmi nel quotidiano. Condividere servizi, la connessione internet, la spesa con i gruppi di acquisto, l'auto con il car sharing significa creare un'economia di scala con risparmi del 10-15% sulle spese di gestione. A Milano ci sono altri tre progetti, oltre a un co-housing in affitto a basso costo per antibamboccioni. Ma se ne contano anche a Torino, Treviso, Bologna, Roma. Per Mathieu Lietard, autore di Co-housing e condomini solidali, vera e propria Bibbia del movimento, è una rivoluzione socioculturale. Io penso che il co-housing risponde a un bisogno per quasi tutte le età, quindi persone da in teoria 25 a 80 anni senza problemi. Io penso che funzionerà molto nei prossimi anni, dove avremo forse ancora una crisi economica non risolta o forse anche più grave, problemi ecologici eccetera eccetera. Quindi l'individualismo della nostra società dovrà trovare delle soluzioni e io penso che il co-housing è una di queste soluzioni. Oggi lo Stato non ha più i soldi per il welfare come 20 anni fa. Queste famiglie possono dare un servizio allo Stato ma da soli non lo possono fare tutto, quindi è importante fare un tipo di partnership Per esempio la città di Nuremberg in Germania ha già scritto dei documenti che spiegano chiaramente che per loro è un vantaggio economico lavorare con queste famiglie in cosi. Sulla scia del co-housing è nato anche il co-working, ma questa è un'altra storia. Italia in controluce. Rupi del vino è il titolo del nuovo film documentario di Ermanno Olmi dedicato al mondo della viticoltura eroica in Valtellina. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Filari si vedono da lontano lungo i fianchi delle montagne, vigneti ordinati, stesi al sole, lungo la Valtellina, la Valchiavenna, uomini formica, avanzano, con ceste sulle spalle, tagliano rami secchi, raccolgono grappoli d'uva con lenta dolcezza. Un silenzio che dà forza, una forza che permette ai contadini della Valtellina di combattere la lotta contro le asprezze della montagna. È la storia che Ermanno Olmi ha raccontato nel documentario Rupi del vino. Sembra quasi che la natura sfidi se stessa nel compiere questo miracolo di vita. E infatti sono vigne, vigneti, addirittura anticamente collocate a più di 1000 metri di altezza, abbarbicate dalle rocce scavate proprio con le unghie da quei uomini che per primi hanno capito la possibilità straordinaria di questa valle, che ha tutta una costiera esposta al sole, al punto da avere un microclima mediterraneo. La vigna, i valtellinesi l'hanno costruita nei secoli, spaccando la roccia, costruendo muretti per creare piccoli terrazzi. La terra l'hanno portata dal fondovalle, caricandola sulle spalle, nelle gerle. Ma la cosa che sorprende di più è il silenzio, che permette di sentire i suoni della natura, come ci racconta Ermanno Olmi. Voglio dire che i rumori che la natura produce, anzi, mi perdoni, i suoni che la natura produce sono musica. Tant'è vero che se noi guardiamo nella storia della musica, quando non c'erano le tecnologie che producevano rumori molesti o silenzi pneumatici, ecco, la musica era chiaramente ispirata a questi suoni della natura. Quella di Rupi del vino, raccontata da Ermanno Olmi, è una storia d'amore tra l'uomo e la natura. Quando, per esempio, raccontiamo una storia d'amore, la raccontiamo, diciamo, o perché la stiamo vivendo, perché l'abbiamo vissuta, o perché vorremmo viverla. Ciascuno di noi ha proprio, come dire, come condizione fondamentale, ineludibile per essere al mondo. Tutti noi abbiamo bisogno di una storia d'amore, che sia un amore, diciamo, di coppia o per un amico, o amore verso la natura. Ecco, allora quando noi raccontiamo queste storie, quante volte, per esempio, ne approfitto per vedere il cinema, una storia d'amore, noi, come dire, ci medesimiamo al punto di farci coinvolgere e assumere l'identità del protagonista della storia che stiamo vivendo. Ecco, allo stesso modo col vino, con la vigna, con il lavoro, con, come dire, la gioia poi di vederlo zampillare. Ecco, io credo che molti capiscono come sia importante questa storia d'amore tra uomo e la natura nel momento in cui qualcuno glielo suggerisce. E lei crede che l'uomo saprà scegliere di proteggere la terra? Guardi, questo non lo so. So che comunque l'uomo qualche volta rovina lui stesso le sue belle storie d'amore. C'è una condizione nell'essere al mondo, la sfida contro la stupidità. Ognuno di noi dovrebbe accettare questa sfida, appunto, contro la stupidità, che comprende l'indifferenza, la pigrizia, l'irresponsabilità. e vivere la propria vita come una sfida contro la stupidità, e quindi raccogliere il pezzo di plastica abbandonato da qualche cretino a terra e tutte le altre azioni che ciascuno di noi può compiere. Quella che Olmi fa ai contadini della Valtellina attraverso questo documentario è una carezza, un abbraccio che si estende all'uomo in generale, quello che sceglie l'indipendenza applicando la regola del vivere. Se noi diventiamo dipendenti nel senso letterale del termine di un'azienda, di una società, di una cultura conformistica, ecco, abbiamo già rovinato la nostra vita. Quindi prima o poi queste garanzie ci verranno a mancare e saremo sprovvisti da ogni capacità di risoluzione dei nostri problemi. Italia in controluce, la cronaca secondo Radio 24. Tutte le puntate sono disponibili su www.radio24.it in podcast, Infoline, il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, la mail controluce@radio24.it. A risentirci lunedì 22 febbraio alle 6:30.